ho messo l'acqua, i bicchieri, due già fatti, i tramezzini, ma non è che ci abbiamo mangiato tutto, no, a preparare di Zara, una di quelle focacce a metà. Sì, sì, stavo mandando un audio, sì, scusatemi, sono qua. Ehi, a capa. Ok, allora lo ascolto, un secondo. E sciavedì. E andava. Zero stazionaria. Zero stazionaria. Vabbè, buonasera. Vabbè, a tu. Allora, io ne ho fatte antenne, ne faccio, però questo zero stazionario non l'ho mai sentito, vabbè. Cappa, già uso guero, ma cosa, non ti preoccupato. Zero stazionario? Allora, dimmi dove l'hai comprata quell'antenna. Capito? La metto sotto lo strumento, perché veramente... Chi c'è? Luca, l'antenna è 1-1. Dico io sì, perché l'ho misurato con uno strumento serio, non con chi ci va giù io, con uno strumento serio, ma però è zero perché c'è un particolare, cioè. Ciao Luca. Ciao. Sto convincendo Antonio a vendermi quella lanterna che c'ha lui, cazzo, non me ne vuole vendere. Perché c'è zero di stazionare, cazzo, non me ne vuole vendere. Luca, non è l'antenna, cazzo. Ah, ma mi ha rompito duri yo-yo, è l'accordatore che te li fa a zero. Molto ci vuole a capirlo. Che pallirosa, però, niente, mi ha fatto l'accordatore, l'ha comprato, capito? L'ha attaccato l'antenna, è così, c'è l'impianto wifi. È logico che se accordi stazionari non ne hai, però se vai è a 1-1, se piove sale un po' di più, però è a 1-1 normalmente, è l'accordatore che le tiene a zero, capito? Gappa, bene, tornando io con il 14, sì. Io, ma che non manca. E quindi, mica Luca che aveva ancora sentito te. Lo senti a Massimiliano? Io gli ho detto, non l'ho sentito a Massimiliano, non lo senti. Ma te lo sento a fare, sempre per dei frigiori, patato imbuttito, No, patato imbuttito no, cazzo. Oh, già mi piace, lo stesso, ma già sto sempre facendo, dai. Sa pegura, butta. No, è pegura. Ma io si fanno i gigioni. Ma lo so, e io si può fare i gigioni, sì. Ma ce la facciamo quest'estate, una bella pecorella. Ci organizziamo. Ma ci abbiamo tutto, ce la facciamo. Aiuto! Mi. A te, A me ci vieni, la fammi? Antonio ha detto che fa la pecorella. Non ve ne problemi, muoviamo un tanto a capo, ne pigliamo la pecora manna, e farrucciamo, vemmo, tutti i canti di cose, abbudito, come ti vengono a me? Vabbè, ma russo ce l'avremo. Ma lo sai fare tu a russo? Che senso ne so fare? Che maledetto che vuoi sapere fare la pecora? Ma in genere sempre di raggio fatta, si danno sempre mangiata, tu. Non hai bruttizzato. E allora già andava. Ma poi ci abbiamo anche il cuoco qua, mio. Ma così, allora. Ecco, preso, ci occupava l'ultima riabilitazione in teglia, va. Ma quando è pronta, fammi il pigiattino, per caso. Senti, su. Oh yeah, sono qua. Tanto fa un po' braccio perché c'è la partita alle 16, io vedo su Roma, cioè vedi, si vede a volume, non lo so. Sto salendo, sì, sto già iniziando. Juventus Roma. Juventus Roma. Sto iniziando. Gappa. Ma che sta bove caso, beh. Io sono invece da come ti andavo a fare più fresco. Ha stato capo di mia mano che goccia va. Bebe. È un caldo viziato, credo, c'è sciocco, domani piove, c'è un sacco di umidità, fate la bravi. Tutta la settimana c'è molta umidità, freddo non ce n'è, ma c'è molta umidità. Lo sciroppo, beh. Ia, sciroppo per la tosse. Ia. Siccome di no che ti sta di me. Dai, c'è la Patrizia, andendi. Ia. Ah. Vabbè. Dai, attende la turbina, faccio dare. Ora, com'è la situation? Pronti, sono in furra. E furra cosa? La boccaccia di Luca. Ah, la boccaccia ha fatto. Ah, io farò io salati dozzi. A proposito, devo fare appena che... Ah, me la magno. No, ha detto che già ci fa il pigiatino a tutti, va? Ehi, così è lui. Cosa? Di te stavo parlando. Ma era il telefono. La boccaccia vai. Cappa, adesso ti mando le foto così inizia a leccarti un po' i baffi. Mamma mia. Cappa brioche, va. Va bene, va bene, ok. Cappa di Roger, come lo senti a Massimiliano o Luca? E bene, bene. Io no, anche qua sto arrivando bene. Anche qua va bene, vabbè, io ho la voce diversa, non c'entra a fare, però sto arrivando benissimo, bello corposo, bello forte, e vabbè. Ecco c'è l'aria Massimiliano, grigia, grigia, grigia, carica di sabbia, domani mi rampa, Giuseppe Brisco mi rampa. Ehi, ehi, lo so, Cla. Lo so, però c'è anche un po' il mitighe in chiusa, non è al massimo, Cla. No, mettilo al massimo, mitighe. Mettilo al massimo, che spinge di più. Ma come l'avevo fatto abbasciare? Ma l'altro l'ha fatto abbasciare. Qui c'era troppo forte la radio, cosa ne so pure. Ma c'è così, se ti hanno detto così, a me va bene anche così. A me va bene anche così, io la tenevo, la tengo più avanti e sotto la C, dai, ce l'ho, più avanti la C, non è al massimo neanche il mio. E il mio è poco prima del trattino dove c'è scritto Max. Se tu glielo appoggi tutto dove c'è scritto Max, sì, per me esci molto più forte. Ed è bella la modulazione perché non strappa. Ti l'ha fatto abbassare, non lo so. Ma di Max? Di Max. Guarda adesso, guarda, così è proprio al massimo del tutto. E non va bene, oggi non pensa che te ne hai fatto abbassare. Le mani a 20 cm, 30 cm. Va più che bene. No, Luca, guarda un po', tutto un braccio sono, guarda, una quarantina di centimetri che accroccio. Vedi, ancora al meglio. Che bene va quando va lontano, vero? Va bene, muovono. No, già va bene, già. Come fai lì? Ma tu hai giocato, ascolta, no. Non devi abbasciare. Va bene così, lascia stare lì a Maettone, che tira abbastanza bene. Non strappa, niente, bella forte, chiara. Così, La muffa. Scappa. Ah, già, è forte quella radio, la verità. Illumi. Ma è altro, Illumi. E sto capendo in questa boccaccia. E che bene, la boccaccia l'ha fatta lui. Già lo sa fare in faccia, vedo, già travagliato in pizzeria. Lo so che lui è impattatore, Un attimo, Massimi. Va bene. E adesso il prossimo sabato. Questo sabato ce la farà, il prossimo sabato organizziamo anche una cosa del genere, va? Fate no, che il mio sabato viene uno, frigiuro, fate il fritto, vito, l'altro, buh. E beh, che farò in kiwi? Io li ho ordinate, te lo vedo. Per domani mattina, per domani, capito? Ma vabbè, quello a livello industriale che fanno classe. Lavorano in quantità, non in qualità. Però dipende da chi le prendi, la sono buono stesso, va? A secchi li ordinate, voi già beh, c'è che andò loro fino a pigliarli. A secchi. Pasticceri a secchi. Ma l'ha fatto solo al chilo. Ma te lo dico, ti metti a piangere. Non lo so, penso sia a 15, 18, buona la tua. A 16. Ti conviene a comprarti la salsiccia più buona. E allora, che buona c'è la salsiccia. Sì, vabbè, ti piace, siamo così, ma già ce n'è di lavoro. Luca, l'impatto, Guido, l'altro, però quando la fanno così in panificio, qua, c'hanno tutto, capito, la fanno al volo, in patatrice, tutto l'altro. Lo so, no, io non credo così in panificio, ce l'ha anche Giano, però no. Panatteri e panatteri, o batticeri e patticeri. Io, anche le frittelle da Trasano le ho prese a secchi, costano un po' di più, però, ho detto, sono buone. Ma sono domani mattina ho dato un vassoio di castagnole e un vassoio di fatti fritti. Va bene, una volta la dieta, certo, una volta mi ha dato, non la dieta. Già ho capito, sì, che c'è la salsiccia, vabbè, è l'impastatrice, ho capito. Ma io sono a dieta, Baro. Tutto roba arriva a me, ho creato di bello, gliela comparata, tutto arriva a rado, purato. Tutto il grancido, No, Baro, gava pento. Allora, io c'è tutto roba, quando sono andato in diera, l'ha curato tutto. Bianco 2 secondi che scendo giù un attimino. Vabbè. Aiuto, vai qua a fare qua. E chi? E chi? E chi sta mandando la foto? Ah. Te l'ho visto già 20 volte questa foto. Sì, manda sempre a te intanto. Sì, a chi non ha, chiamatemi la città che asciutta le latte, un preso. Bravo. E si conferma. Io ci sono visti di sono avanzati. Ah, io che so di cingo. So di cingo visti, già prenotate. Sì, le altre ancora appena messe a asciugare, gappa gappa. Chi si buro, lo so già prenotate in buro. Non sei contento. Non viene ricomprato la porcellaria. Davvero. E che preso a Gico? Che cazzo ha chi canna? Sacchetta, c'eravamo tutti i suoi carri e buono in bocca. E si lamentano che c'è a camminare. Beh, tutti si immagina che stai diventando un pochino. Ah, cucchietti, mi sa di poco. La mia volta vedi un po' imbecille di cronista. Per carità di Dio. Ogni voce buona nel suo pingaccio, ma poi l'abbiamo mangiata ieri, oh. Ho fatto la prima roba, ho fatto buona roba io. Gappa gappa, ma in effetti poi ognuno la fa a modo suo, diciamo, dai. Che ti ho detto? Poi portami un pigiattino, no, niente, che ti hai mangiato la garra, la vava, la gaura, un viroccio, tutto ti hai mangiato. No, io veramente ho claro, poi non mi mangio il brucchio, che ti penso? Sì, che cazzo, e che la mangia? C'è un francese, c'è una rosa, Daniela ne mangia? Sì, Daniela, Valeria, babbo, io Gaia non ne mangiavo. Amore del viaggio, se vuoi viaggio lo fate buttare. Ma con rebisare le mangi? Nulla, io la favola la radio solo cruda, qua. Ma che così va a rebisare la radio per te, nulla, io la favoletta le mangio solo, ho tirato dalla pianta e buh. Anche a me quello piaccio, le favolette fresche. Le favolette fresche, quello è sicuro che mi ne mangio una gaccetta. Ma anche le favole, rebisare, e la favoletta se è buona, non me la fa molto buona. Anche il mio vicino di casa me l'ha data l'anno scorso, mi ha fatto un pantalone, mi ha bussato la porta, c'è un po' finito con una cosa, e mi porta dentro, vieni qua. Ho mangiato di notte e mi ha lasciato anche un po' a pranzo l'indomani, ma buona veramente, c'era un sacco di carne. E qua anche questo ci tomba buona, Mi hanno detto loro, fatti un conto, se mi hanno mangiato 2 pareti. Sono avanzato altre 4 pentole, una l'ho data a mio zio, che qua a fianco, e l'altra di una ce la porta sino a Rosa, e l'altra si la mantenere di un'area a pranzo, 4 gotte, no, è uscita buona, 4 cavoli grandi, mi sono fatto tutto l'andato, 4 cavoli, carne, breta, manetta, 2 chili di farro, tavuglia, ho visto una pentolona. Vabbè, quando c'è il posto così c'è il pentolone buono, esce buono. Sì, quando c'è il posto, non basta farlo interrato, lo bevi male. Il tornellone, la metti in un angolino, te la bevi buono interrato, poi la bevi con la budita e esce così. Lo so, ma ci vuole il tornellone, quel pentolone, forse un pentolone ce l'ho io. Così grande, su una sarda, che era di mia suocera, che la facevano spesso loro in campagna ittica. Però non c'ho il tornellone, capito? Ah, vabbè, io già c'ho tutto, là. Già c'ho un po' di attrezzatura, già ce l'ho, là, già l'usai. Metto la casetta, cosa ho detto, e sto sempre con parelli, aggiungendo, sempre, non ci sta più nulla. Già lo so, che già si è organizzato. Avanti, lui, affittendi, sì. allora, se io me ne ho preso l'altro giorno, le buste sotto vuoto, ne ho preso un paio di forme di formaggio qua, ma buono veramente, me l'ho messo tutto quanto sotto vuoto e me l'ho messo in frigo. Ma vero, l'ho preso da Tino, una l'ha mandata a Vittorio e l'altra sotto vuoto l'ho portata da poco, ma ti dico che è favoloso, buona. Sì, sì, no, io lo prendo così per mangiare, ma non lo prendo stagionato perché sennò diventa troppo duro. L'ho preso semi stagionato, a 9,50 al chilo, lo prendo da 1,2 kg, 1,3 kg, quello così da 1,3 kg, da 1,350 kg, una cosa del genere, va. Quasi 1,4 kg era là. Andrei comparando. Più giù di casa quanto ci sono da questi fattori che ci sono qua di sotto, va. Che conoscono la piccolina e danno roba buona. Buono, Isò. Sì, buono, tu, veramente buono. Allora. Oh, mi la boccaccia, mi. La gente non ha mandato la moto, sicuramente è buono la boccaccia, oggi. Cazzo, un maestro magone questo Luca, a me la resta le cose che fa. Ah, c'è l'impastatrice per forza. Beh, ci vuole l'impastatrice già. E andava. Certo che ce l'ha lui. Se no come fai a non fare questa cosa? Certo, non ha curato quando lavagliava le basi, l'ha andato, non ha curato tutto. Tutto lo sai. Ha fatto bene. Che ti ha fatto a pieno, a me me l'avevo contento, a me qualche buetto. Ha fatto bene. Se mi avevi dato che siete come gli euro invece sono di granazzi altri, invece a Sanrato, prima in Offi, in via Sosso, da poi a Sanrato per Danietta, debiti andava con i fornitori, e allora vieni a Sanrato, non so quello pure il culo. Via a me. Ehi, buonasera. Ehi, come ciao a tutti ragazzi. Ciao, Roberto, buonasera, ben entrato. Ho pigliato il culo, ma io. Secondo me ti chiamano giù a che c'è stavente. Occhio ringhi dentro. Ah, so già. Eia, eia. Secondo me hanno già una voce c'è staventiera. Oi, oia. Vabbè, ciao a tutti, non so che ci sia in volta, vabbè. Avanti, avanti a chi tocca. Vai, buono. Ehi, capa, ci sono io, ci sono. Buonasera. Ciao Antonio, ben sentito. Mi sa che una volta ci siamo incrociati nella pizzeria d'asporto che c'è qua in Corso Fico, vabbè, non. Però adesso mi sono ricordato una voce. Vabbè, io sono entrato, tu stai andando via, stai prendendo delle pizze. Ma dove? Da me la mangio, in Corso Fico. Non me ne ammento. Ma un po' di tempo fa. Ehi, qualche settimana fa. No, no, non ero io, no. Vabbè. Aia. Ronaldo. Allora mi sto confondendo, dai, comunque non c'è problema. Il PC ti va via. No, me lo ricordo, qua, è stato proprio un attimo. Ma stai guardando, ma ci vedi? Ma che cosa? Momento giù a Roma. No, non lo sto guardando. C'è niente Ronaldo, questa è mia bicca. Gaffa, gaffa, va bene. E c'è anche Luca, mio Gianni. Ehi, ciao Luca, buonasera, avanti. Ah, ciao, stai, che sto facendo il pane. Hai con le mani in faccia, Bellato, buro di Luca. Chiappa. Ma ti do che la gogliupa, la vuoi far rubare, no? Non c'è tanto. Ma che ti do che la bella, la vuoi far rubare, no? Non l'hai mai visto mentre fai rubare. Prima si elabora già avere un altro, la vuoi far rubare. Mira Massimiliano, ci abbiamo le foto noi. Ci metto il grembiule. E chi? Luca Flipper. Vabbè, prima vera, buco, c'è tutto il bocca, ci vai. Non vuoi forruggiare già che cosa, fanno rubare. Ma Gianni, cosa ci racconti? Ah, ragazzi, mandami fotografie, mi c'è 20.000 avvami, vai a San Camillo. Tu mi mandando il bocco di fotografie, che te lo vuoi mangiare, chi so, che? Spegni il telefono. Antonio mio, che. Va bene, che va bene. Oioia, e beh Massi, col K sì. Oioia, si sente. Eia, inconfondibile. Come si sente? Parlato dalla gola. Ehi, dalla schiacciata, dai. Anche questo lo faccio così. Anche questo lo si sente. A voglia, sono inconfondibili. C'è Buppione Massimiliano che... Ti ha clonato qua. Io purtroppo ho clonato a lui, giovane 10 anni. Ma io fammi sentire più 5 clavo con la radio. Vedi che te la attacco, così. Perché ho abbassato la TV? Non è già prendito, tanto io sono vantaggio. Aspetta, cambio il microfono. Avanti, Antò. Oh, Gianni. Ma, Lia, ma fammi già che ti sta chiamando. Ehi, Amassi, dimmi. Tu guarda adesso a Claudio, attacca l'MB più 5. E non senti neanche la differenza da 60. Vediamo a vedere. È bello, il microfono è bello, Poi è bello perché non ha batteria, prende la corrente dalla radio. Attacchi e vai. Tutto autosufficiente, dai. Ma è che ciò che accendi? Cablato così, capito? Ho già cablato tutto così da chi lo sa fare. Certamente, certamente. Adesso vediamo un po' cosa arrivo a capito, dai. Cosa abbiamo appena capito? Il microfono, no? C'è tutto, questo è. Molto simile, dai, molto simile. Bisogna prendere una volta d'occhiata per quanto ce l'ho. Guarda, bari, usa il salto. Allora, ce l'ho a 6, ce l'ho a 6, adesso lo mettiamo a 7. 1, 2, 3, eccolo qua. Così è a 7, 7, 7, 7, te la mette. Ma la capsula originale? Tutto originale questo, non è visto, non è BB5, no, ma c'è, no, no, no, vedete, la scatola c'è solo il cambraggio, praticamente è cable. Prende l'alimentazione dalla radio ed è come che stai usando un MC60, lo senti? Bello, ca! Sa per avere un MC60 a Bari? Vabbè, io sapete che la mia voce è quella, ma ti ripeto, posso anche tirare appena appena ancora più su, ma non è che... Ola, così è a 7,5, no? Guarda, no, troppo forte così, abbassa a 7 che va bene. No, io ascolta, ma l'MC60 cos'è, un microfono dinamico? È un microfono amplificato, mi sembra, no, la capsula ceramica, capito? Questo praticamente è stato tolto, il cavetto originale sfilato, è fatto, ho messo il cavetto schermato, cavato cable anche dentro. Questo è come se avesse 60, prende l'alimentazione dalla radio. Ho capito. Quindi sono tutte e due, diciamo, sono tutte e due a condensatore quei microfoni? No, quello è il MB5, no. Ah, ok, va bene. Comunque, si sente una leggera differenza, soprattutto sulle frequenze basse dell'MC60. E questo è un po' più, come si dice, l'MC60 ha molta più presenza in toni bassi. Sì. Vabbè, questo c'è il toni, adesso io sono senza cuffie, se no se te lo avevo alla perfezione non te ne accorgi tu. Ma l'ho spostato, non mi ricordo quanto vogliono i toni, non lo so. Però anche questo già riesce a fare le tonalità medio-basse, capito? Però vedi che spinta che ha. Ehi, si avvicina molto, dai. Questione di sfumature. Però si avvicina molto. No, vabbè, non adesso non mi sono mai preso la penta di leggere le caratteristiche tecniche dei due microfoni, quindi non conosco bene le differenze, dai. Massimiliano già la conosce. Un attimo, Massimiliano. Sì, a positivo, ascolta, i toni come ce li hai invece? A due sono, vero? A due li avevo messi, sempre così sono. Bene va comunque, mammola, ti piace? Capa, adesso prendo la bicicletta a giocare a trende. Per te questo microfono, per te, nuovo dentro la scatola, 60 euro, per te, se no gli altri lo prendono 75, per il lavoro che è stato fatto, capito? Capa, ok, dai. Adesso vediamo, va. Vieni a prendere la bicicletta, va che fa leva. No, c'è salire adesso, già. Tanto qua non può entrare nessuno. Già ci sentiamo su WhatsApp, tu se ti serve non c'è problema. Già trovo. Avanti, Flipper, ci sei. Qui c'è le picche di modulazione da 10, quasi 15 a... 80 watt. Buono. Siete buono. chi ce va dove, buccia la raccio. E questo no, non ci arriva, ma già l'abbiamo stesso. Non ci arriva, ma per fare e più o meno siamo lì, 70-80, anche questo. Beh, gli osservi così. Anche questo è un osservato, un osservato da 15 a 50, 40, 50, ma se faccio 70, sono 70, 80, 70, la ci vuole più picciti. Andiamo bene. Già si difendono bene. Un attimo, caffè. Eia, Massimiliano, il mio segnale è sempre uguale. Rispetto all'ultima volta. Sì, sempre uguale. 9-10. Ehi, bene meda. Ascolta, ma per l'altra volta mi stavi dicendo che avevi qualche, come si dice, qualche segreto per insomma, per strapassare un po' questa radio. Non ce l'hai un PDF, un'immagine, un JPEG con uno schema elettrico? No, già ti mando un WhatsApp e te lo dico lì cosa devi fare. Ehi, andavè. Così vediamo cosa succede. Abbiamo avuto una posizione d'oia, guai. Ma è una cazzatina, mi proprio lo brofe da fare, ma proprio quasi niente. Ehi, vabbè, qualche cosina l'aveva toccata Marco qua, in origine. Non mi ricordo che cosa, comunque dai, vediamo questa moto zappa e poi vediamo se è fattibile, dai. Ma poi che te la mando, Come stai cercando oggi? No, Massimiliano qualche settimana fa mi ha detto che voleva scacciavitarmi la radio e mi ha detto che se volevo di praticamente di darci l'appuntamento si portava i cacciaviti in macchina e me la scacciavitava in strada. E non vi appoggiami. E già c'era il coraggio, dai. No, vabbè, adesso scherzando. No, mi è venuto in mente, ho detto magari se c'è qua lo schema elettrico con tutte le posizioni delle varie regolazioni, magari possiamo provare qua a farla a casa. Io sono tutti normali, non maggio modificato, non maggio modificato da dentro l'armadio, perché come l'attacco fischia, i microfoni vogliono lasciati normali, questo c'è la capo, c'è la sua originale, tutto normale, è nuovo. È quello che ho detto io sempre, sono veramente vaghi subizio, ma io sono sempre, non sono mai stato d'accordo, è la voce che spinge il microfono, non che il microfono deve spingere fuori tutti quanti che si sciabidure. Ma io mica li caccio a viti. Ho sentito il fischio nel telefono. Ragazzi, io vado a ordinarmi le pizze, dai, mi assento un attimino e ci sentiamo appena fatto, ok? Nel frattempo do una sbirciata, Massi. Ok, dai, a dopo. Dove le pigli tu? Sotto casa, da me la mangio. Sì, è bravo Guiso. L'ho preso un paio di volte, mi pare. Quello che c'è quel cartone scuro, no? Sì, positivo. Sì, sto andando a prendere, dai, ci sentiamo tra poco, ok? Eia, ciao. Eia, va bene, già. Quando torni, dalle una susa con quei cacciaviti. Va bene. E che canale è la partita qua? Su Sky? Ma Claudio non c'è più. Sì, che sono qua. Ma che canale è la partita? Su Sky è. Io non ho più partita guardando su Sky. Ho trovato a bagnare. Io sto guardando sempre con quel sistema che ti ho detto. Ma neanche io ne ho. Telefonino, wifi e TV. Sì, ma io sono più nessuno. Aspetta, guardo se me la fa vedere qua. Ancora, ti vuoi? Me la fa vedere anche lì. Se c'è il segnale già te la fa vedere anche lì. Quindi a te ti piace questo microfono? Ma voglia che mi piace! È proprio scherreggiano con la radio, mi ciuccio, poi dunque c'è a volte da orco che vai. Poi ti chiamo l'attenzione che lo devo fare Viero. Ma io ho la voce più bella. Beh, se ne frega, io sono vecchio. Anche le basi ti sto fondendo qua. Okay. Le basi dove c'è la radio? No, ecco, te ce me l'ha fatta Marco Giulio, dove c'è mi voce in terra? Sì, anche fra poco non ti faccio nulla. No. Adesso, non è mi parte questa radio. se Paolo è uscita fuori da qua, c'è per la mano, se no era 2-3. Cazzo, ma che giugheline non si è ritirato ancora? No, a domani c'è nella roba. Cazzo, ma cosa giugheline le giugheline? E cazzo buffo? Di 43, 44. E infatti, buffo, Sì, sono quei fermi che vogliono chiudere la carriera con la squadra, su, ho capito, ma che gioca sempre Chiellini. Ma Buffon sì però. Buffon fa tutte le coppe, tranne la Champions, Coppa Italia, Coppa le Coppe, Coppa Italia ha giocato lui, contro l'Inter. Adesso lo stesso a Torino giocherà lui di nuovo. E poi partite leggere, che si possono vincere tranquillamente, o insomma, gioca lui, se no c'è sì. Cazzo. Va bene, avanti un po'. Ma anche non se la mangia la pizza, dici tu buon fetto. Infatti mi hai bucato la brava la bocca. Ma va buona, non di due, ma gli no. Forse a prendersi le pizzette, non lo so. Se mangia regia, ridete oggi tu la mangiare. Tra l'altro l'altra volta ho mangiato le 9 io, leggero. Mezzanotte mi stavo guardando la partita, ho mangiato a snocciolare, a mangiare le sci. Vabbè, ognuno c'è il suo orario. Avanti, bombo. Ma Luca, beh, Suze. Ma Luca era flippe. E allora, va. Boh, sta facendo la focaccia, va. Sicuramente la sta preparando il condimento per informarla. Una volta avanti, due massaggi e poi sparisce. Grazie, buona cassa. Quindi va bene, dai, sto microfono. Si assomiglia a 60. Oh, la voglia, bello. Su capo bugnetto me l'ha venduto. Era ancora più bello, tu sei da capelli. Massimiliano Petisella. Hola, chico. Vabbè, Luvarie. Chi è? Cercando l'impastatore, che mi fa l'impasto per la pizza. Sì, che fa la pezzumiera, io. Io arrivo, ma siamo già i cosi, prima. Ghiai e mezzo, che è una cosa massigalla, ma non voglio denti buoni. Sì, allora siamo in due, va. Sì, a tutti i bini. Avanti, bombolo. Cos'hai attaccato tu lì? Eri tutto scorreggiato. Tu già hai buoni i denti, Massimiliano. Ma non so denti buoni, se ne sono rimasti 4 o 5. Sì, di beri. No, no, buono di denti. Fine, ho di cazzo di la blessa. Hola, chicos! Vuole tre prova? Hola, hola, uscendo sto? Ehi, adesso sì. Ah, facci sbagliato a volendo le gambe, facci a... Trago di fumo, intendo, Antu. Come ti piace di fumo? Trago di fava, intendo, che su baracchini scende. Bruciendi, Perché bruciando? Dai, sto scendo bene, sto scherzando. Ma tu qua ho fatto una cazzata. Ho giambato davanti, ho buccio RTX, ho buccio antenne, la buona ci ha fatto dove? Ha detto vai in ora a mare. Ha disegnato la borsa da portante. Ma tu, ma sempre quel mobile là, ticciolare, sempre messo a posto tu hai. Ah, ma sì. Sto utilizzando il coso, sto utilizzando Massimiliano, l'87. La marava cicicocco, com'è? Buono, buono. E non è attaccato il gioco, l'alimentatore da 50. No, sapevo quello da 30, non ero da 50 io. Ah, eccolo a 30, io. Già va bene, già va bene. Ottimo. Leggermente, più o meno c'è come l'altra, non c'è problema. Campa gappa, meglio va adesso. Già va bene, va bene. L'altra c'ha più picchi positivi, questa di meno. Ehi, questa schirreggia a me. Gigi è un'altra rotta, va bene, no? Sì, gliel'ho sentita scorreggiare. L'avete sentita? Sì. Cappa di Rogero, avanti Massimiliano. Colpa mia. Sì, avanti? Forse aveva qualcuno che voleva entrare. Ah, detto colpa mia, eh. Ah, vado di tu veloce, Antu. Vabbè. Luca, avanti. Sì, che mi sto sistemando dei jeans da lavoro. Metto da parte, se non mai che mi esca qualcosa. No, ce li ho, dai. Se manca l'ascolto, ripetete voi. Andra Bex, va bene, ok allora. Luca Fipare starà già impattando nel forno. Quando abbiamo così, vai. Poi io faccio qua, scendo giù, mi vado su una giura. Ehi, ehi, no, c'è gente sotto, io sento un pescio sotto, buco, volentieri. Può essere. Ah, io non sono nessuno, tutto pace, tutto Ramadan. Ehi, no, ma qui non sentivo più niente. Ma perché sentivo più tutto, io non tengo più nulla. Oh, sì, buca. Sì, anche oggi, però di prima facevo un altro appuntamento, io ne avevo tre, due di mattina e uno di sera. Casa è sempre in vendita, ma ci vediamo. Quindi, sono tornati alla carica, prima non si poteva uscire, fare Covid, bim bum bum, quarantena, faccio tutta la ricarica ad ora. Ma Massimiliano, guarda che anche queste zone non sono male, mi. Non ti credi che siano, non sono male, mi, come ricezione. Non sono carburati, però. Ma io non ti preoccupare, sono già a posto, tu, non è che sto cercando niente, devo solo dare questo, poi te l'ho già detto, volevo andare io. È già tutto pronto, c'è da fare alcuni lavori, ma è già tutto pronto. Campagna mia genera, lo vai tieni i cani, no, non è che un problema di gas, già c'è anche quella via di San Francesco, ehi. Andi è? È un bel lontano, è da tazza. No, è sotto Canica, proprio Canica, non so se sei dove il campo sportivo, lì dove c'è la farmacia, lì. Qui mi arriva una bucinata, ma arriva. Dove fa una zona? Cosa, Massimo? Poco fa una zona, attacca il bagno. Lì, quando c'è il campo sportivo, sali con la stradina, dove c'è la chiesa, lì a sinistra. La conosco bene, ho fatto tutti gli scavi per il gas, lì, dal campo, Santa Natura, chiesa, sono sceso giù, sono andato a Porto Comunale, in mezzo a tutti i banchi, la conosco bene la zona qua. Fa così, vabbè, se ti piace. No, ma vedo lì che me ne compro giù un'altra, se c'è. Oppure l'alternativa è quella via San Francesco, ma via San Francesco io c'ho il cane, non c'è ascensore ed è al terzo piano, capito? Sono due mansarde accoppiate, molto bella, grande, qualcuno già l'ha vista qui, non sto dicendo balla, però c'ho il cane, ho bisogno di fitta da dove è, cosa c'è là? Ti è sembrato Rubiglio Battazzino, non è fa scala Filippo, o scendere e riscendere, ma salire non è fa. Tu cane mandrone vai! Sì, un cane scegliere. Sì, ma ci vediamo. Quella è bella. Che va bene. È un paradone, è un tabella vicino, guarda ci vede tu Sassari. È proprio dalla prima collinetta salendo a destra, capito? Rimane una cinquantina di metri dal ripetitore della RAI, però verso sotto, perché lì è Monte Oro, io sono verso sotto. Gaffa, gaffa, va bene. Stai cammino una vicina a te? Sì, lasci che non vado a casa, va bene, va bene, va bene. Ma non lo credo che ti ha portato, non è che così. Ehi, la buco buco anch'io. Forse non hai capito tu, allora la battuta non hai capito. Fino a quando sto qua, va bene, lì non metto proprio niente. Può darci pure un barattino, metti per darci a 220 e buco. Non hai capito che ci vuole una piazza pulita, io me la fatto in minuto a me, giusto per capirci, ma lo capiscono tutti, lei era quella del salviere finita. Non sì, non ti chiedo di più, c'è una cosa da trattiere, no, da trattiere una cosa, va, ancora c'è lì, non c'è problema. E te l'ho detto, quando c'è pure me ne tenga una, ma non è che va sai cose. Già qua ne ho tolto tutto, oggi era incasinato, era un po' incasinato, perché sono andato da Roberto, guardato da Romano e abbiamo sceso la multibanda. Poi si è fatto tardi, poi l'appuntamento a mezzogiorno e qualcosa c'era uno, poi all'una e un quarto era venuto un altro. Adesso lunedì ne ho altre due, uno di mattina e uno di sera, quindi sto cercando di fare queste cose. Se no oggi mi sarei andato sul tetto ne avrei tolto la... La VU quella piccola e la monobanda quella grande, capito? E anche di po è dentro, ma cavolo è dentro. No, non c'è niente attaccato di po. Sì, allora, inizia a fare foto, qua. Ci va a fare la foto a quella direttiva, 5 elementi per 6 metri, e poi quella antenna lo stesso lavoro, capito? Ma perché me ne metto 60? Già gli ho fatto sentire questo. No, ma bianco per me che... Ma lei metti 60, no? No, ci sentiamo dopo, ok. Buonasera, ciao a tu. Eccomi qua. Fatta già. Va bene, va bene. Mi dite che non potete partito. Ehi, ehi, ecco va bene. Non c'è nulla, non la trovo a guardare, ma già va bene lo stesso, va. Ehi, cosa vedi? Cosa vedi? Sì, io non ce l'ho più quella grande, c'ho quella piccolina la TV, anche io non vengo la mazza. No, vabbè, io me la trovo a guardare qua perché sono in radio, c'è la TV accesa, mi sono anche la partita, in radio, che è quante cose tutte assieme, buh. Ehi, vabbè, già va bene. Sì, vabbè, noi abbiamo fatto classe, ripeto, la centrale del gas, lui ha fatto comunale, e poi da lì siamo andati tutto a Santa Lattonia, tutte le diramazioni per le case, capito? Sì, la cosa con me. E beh, adesso, però sono tanti anni che non ci va, no? È un po' così, no? Due possibilità. Due possibilità. Di fare il cambio col cognato di mio genero, darle quella lì. E noi andare al marchetto. Il marchetto è più bello però. Lo conosco, non ci vediamo. Il marchetto è la zona più bella, più tranquilla pure. Ma lontano è da Sassari, ma non è perché andava a Budibudi, così è. Il marchetto è lontano la zona. Il marchetto, cosa vuoi uscire? Ma da Loga a Marchetto, che sono 7 km. Va qui a Sassari, ce ne sono 7, no? Fai 15 km, però. Forse neanche. Picchetti. Stavamo di butti, devi entrare, sì. Vai da Marchetto alla Teroce per fare la spesa, c'è farmacia, c'è tutto molto lontano. 10 minuti, là. Dipende poi da dove è proprio Marchetto. Guarda, io ci sono andato, se no, un paio di volte, forse un Natale, un Capodanno abbiamo fatto lì, dal cognato di mio genero. Ed è praticamente, si gira a sinistra dove c'è Cosmino. Esatto. Chi c'è nel marchetto allora? Cos'è? Si entra lì però, eh? Sì, sì. Sì, si entra lì, ma il marchetto non è quello. Quello è Babi Manna. Però c'è Cosmino a sinistra. Hai buon chili, cazzi. Marchetto, una bella casetta, ma 75 metri quadri, bellina. C'è un giardino, tutto. Ma il marchetto non sai dove andare, qua. Così tu non lo conosci, Umberto. Ci sono andato una volta, ma tanti anni fa, ho girato lì, sono andato in fondo, c'era una salettina, e lì c'era la casa. Il marchetto, ma di cosa ne gioco? Ti aggiungo un gioco in dietro. Ah, lo sai, proprio la tua marchetto. Allora di adesso. Marchetto tu, scendi a farla, giri verso Platanola, la seconda attraverso a destra, quello marchetto. Quindi a ottava al semaforo? Sì, dopo abita Gigi, per farti capire. Prosegui ancora, superi il distributore dalla S e prendi la strada per andare a Platanola. Fai la prima, la seconda a destra, giri e poi la marchetta. Scusa, ma lì non si entra per, come si dice, aiutami, per San Giorgio. Devi entrare anche da San Giorgio e lo devi percorrere tutto però. San Giorgio, Villa Gorizia, dopo Villa Gorizia c'è Marchetto. Ah, ecco lì, perché sono entrato con la Budibudi allora. Ma è lunga quella strada, eh? Sì, via, Giuseppe De Martini, quella strada. Capito? Se tu mi dici, dai dalla Budibudi, giri alla rotatoria, entri via a sinistra, dopo Cosmino, e chi c'è da di mano, non è Marchetto. Ecco, mi ha detto Regione Marchetto, è sempre un uscire, mi ritrovo giù io. E vado a passare anche dalla Budibudi, Massimiliano. Sì, entri per Badimanna, fai un 500 metri e c'è una stradina lì a sinistra, sali lì tutta asfaltata e esce a Marchetto, sì, la conosco anche quella, capito? Però dipende da dove è la casa, buf, io non lo so. E l'ho fatto, quasi non mi ricordo esattamente, sono passati un po' di anni, però lì sono entrato, ho fatto un bel pezzo di strada, poi c'era una salettina, un pochettino di discesa, ho girato una traversina a sinistra ed era lì. E sei passato dalla Budibudi? Sì, sì, sì, Massimiliano, me lo ricordo come oggi, quello sì. Sono entrato a sinistra praticamente, adesso non so se prima o dopo Cosmino, adesso hanno fatto tutta la quattro corsie, non lo so. E vabbè, comunque vai, da lì arrivare alla Teroce a fare il peso, sono 5 minuti di macchina, ma dopo 5 minuti. Se no passerà a Padegundo. di Gunnu? Ma di Gunnu? Ah, e di è? Massimiliano, spiegaglielo. Ma cos'è un'altra vicina marchetta? Allora, gira a sinistra, poi a destra e poi deve entrare centrale, dalla grotta. Dalla grotta? Sì, vivo tu lui. Che cazzo gli devi dire per noi? Io l'ho compresa. Ma di Sciogullo! L'ha compresa! Ah, Sciogullo! Allora si fa di Gunnu. Boh, ha detto ma cos'è? Non vuole mai nuovo. Sì, anche adesso si chiama Patigunno. Sì, adesso c'è di male, comunque non lo so, la verità. Se dovessi andarci adesso non la trovo neanche a casa. Boh, però so che si entra lì, io sono entrato lì. Se poi sono altre entrate non lo so. Sì, boh, ma a Pirlo dalle cotture? Raga? A Pirlo? Boh, ero girato dall'altra parte, non l'ho visto. A Pirlo non è scusa. Mi pare l'arbitro da lì che stava parlando lì. Che ti proprio a Pirlo, poi non vi in campo, è dormito come te lo vuoi. Va bene. Vai, comunque, qua. Già, allora, per lavoro, Marchetto è più bella zona d'Italia, vai. Tu, le decisioni là sono le tue, va. Ma già sei bene anche lì a tutti i geni, qua. Ma te lo paga più nuda, non è condominio, non è nuda. No, Massimiliano, io ci andavo 87 qua. Mi sono spostato 2 anni e mezzo, 3 anni, poi sono tornato, sono fatto la casa di Vesuci e basta, no? Basta, non c'è, sono a fare tutte e tre le facciate, le due laterali più quella esterna, ci vogliono quasi 500, quasi 600 mila euro. Ci ho aumentato il condominio a 120 euro, cazzo della volta, ma non più tante, no, è troppo grande, basta, mi sono stufato, abbiamo preso una decisione, ma già da qualche anno, però ti ripeto, stava andando benissimo, poi ci è stata toccata di pandemia, adesso stanno rientrando i clienti che la vogliono, me la prendo, basta. Se trovi, sì, balla subito, ma se trovi, adesso ancora siamo in pieno, ma comunque pure. Non è un problema, da lunedì siamo con un di cinesi gialli. Sono la verità, stanno venendo in coppia, massimo 2 con la mascherina, teniamo la distanza, vanno a casa, qualcuno è già molto interessato, ho un paio di risposte che mi devono dare in settimana, però io continuo a... quelli che mi mandano, capito, poi c'è l'agenzia, quindi quelli che mi mandano io devo fare entrare per forza. Andare. Avanti lui. Infatti per quello ne ho tolto tutto al petto, così se no me le faccio da solo le cose, capito? Non avevo guscio di toro, lo bigio, metto tutto in mansarda, poi piano piano porto via anche la roba che rimane in mansarda, non ce n'è problema. Beh, quella è già una cosa che potresti già svuotare già da adesso, non c'è bisogno di aspettare che andare a casa. Chiamo Camucino e se lo butto di dove andare. Massimiliano, dal giorno che l'hai vista tu, se la vedi adesso, dici, ecco, adesso è in ordine, ma qui giù da pallone, non fai più nulla. Tutto buttato via, chiamato un camioncino, proprio come hai detto tu, ho fatto 2 viaggi, non uno, 2 viaggi, ho fatto via tutti quei mobili, tutta quella roba, sono rimasti i tubi delle antenne, la direttiva 5 elementi e quel divanetto, basta, non c'è altro, quel divanetto di mia suocera, boh, che quello me lo porterò via. Ma quella direttiva, perché non te la fai fuori, cosa mi fai là? Guarda, quella direttiva l'avevo promessa in cambio di una cosa che poi ti dico su WhatsApp ad una persona. E gira gira glielo lo porto io, mi sono tra le palle. O viene a prendercelo, se no faccio le foto e me lo vendo. Ah, posto, allora, va bene. Allora, battimi la lampada e chiedi, ti la vai cacciucci, no? No, lampada è una lampada, l'abbiamo smontata con Luca, tutta pulita, smontata, messa da parte, già segnata, è pronta a vendere, non ce n'è problema. Ci va a mettere il cartone, di nastro e via su che andiamo. Va bene, ok. Beh, tanto, lampada non me lo devi dire, claro, non è che lampada, già lo so. Va bene, vai Luca, ci sei? Sì, ogni tanto mi assento perché sto controllando il pane. Lei è piccata, brava, invece quella vita ce l'ha stata dimenticata, ancora lì vivi là. Ancora lì è lui, ti ricordi quando volevo a prendercela? Sì, io ragiono da io, cioè, vieni te la prendi, ancora volta, anche perché non è assente. Quindi se vuoi venire, vieni te la prendi, ci mettiamo d'accordo, cosa c'hai? Un microfono, una radio, un baracchino, non me ne ha fatti nulla. Eravamo rimasti così, ma io posso caricarmi la Sto usando adesso, Luca, la Ligo 60? No, le sono 20 è questo. Se riuscivo a togliere un po' di acuti. Non fanno. Vabbè. Va bene. Se mi vedi così, non c'è niente da fare. Se mi vedi spinge con l'Incom, ma con K attiva questi acuti micidiali. Infatti è per quello che non l'ho usato. È troppo forte. Attenzione, col K invece sto dicendo stronzate. Con l'Incom lo sto usando, ed è così. Mentre col K è molto meglio. Molto meglio. E vabbè, guarda, la prova è via. Ricordo che avevo fatto il video a Torace, non ci credevi, non mi ricordo se lo stavo usando col 440 o col 430, con l'adattatore, ma era una gannonata. Avevo 440. Col 440 era. Ma forse ritorno anche, io lo sappiamo, ritorno anche dalla timica, ritorno un po' da tutto. Ascolta, lui, secondo te un 60, mettendo le batterie, si può adattare facendo uno scopo solo per provare in un Galaxy? Allora, Massimiliano, aspetta un attimino. Massimiliano. Dimmi. Ma qualcuno ti ha messo un portante verso qua oppure ti sei abbassato di radio e poi ripreso? Mi sono abbassato di radio? No, allora c'era la portante verso la zona tua e te l'ha coperto qua, perfetto. Sì, nel Galaxy, sì, l'hanno messo anche nel Pluto. No, volevo fare una prova, capito, non volevo uscire. Tu l'hai già provato su una radio del genere? Io no. Però ce l'aveva qualcuno sul Pluto e ci va bene. Io ce l'avevo sul presidente Lincoln, con l'adattatore, me l'aveva fatto Massimiliano Archimede, capito? Era uguale a Ghita, ritende che c'è modulazione, uguale, precisa identica. Vabbè, ma ora come regolare lo spinotto, capito? Si fa lo spettore, poi se esce bene si può fare direttamente con lo spinotto a 4, con le batterie. L'adattatore vi fa il provetto. Non ho rovinato male il connessione, è l'adattatore, da 4 a 8 metti le batterie, due filo all'interno e tu sei a posto. Va bene, ora vediamo un bicchico. Io già non c'ho un bicchico è flipper. Sono esagerito, già avevamo un bicchico. Scusa, mi sono illuso, pensavo che stavi dicendo a me. Ma se non sono qui e le due vuole che disegni. No, vabbè, non chiudi BL che c'è buva, è bel puro, con tutti i carri. Non mi riparo di fare connessione ai microfoni, che proprio hai detto la cosa giusta, non c'è buva. Io ho aggiunto un BL, ho aggiunto l'altro. E te l'appoggio. I BL già ci sono buoni a farli, mica. Però connessione ai microfoni. Vai, ancora, pronta, è maledetto. Chi è? Tutto a frusci. Vai, cuocuomane. Vabbè, Catalino, cuocuomane 2, la vendetta. Mi stava fischiando, c'avevo quell'altro acceso. Vabbè, la mazza di Nelluari, a te la coccaccia. Ma come la lasci, bianca? O le metti il condimento? Hai ricevuto? Ma Massimiliano, la coccaccia di Luca. Ehi, Natali, qua stai usando? Sempre il turner? Sempre quello. Capito. Gli ho cambiato la batteria, chi può darci che la carica? Ma va bene. Se mi avete chiamato, vai, stavo rispondendo a... Ho messo già. Bene, allora come un taggio un Galaxy, mi sono rotto le palle con questo, Lascio col Galaxy. Ciao Natali. Ciao Massimiliano. E quindi cosa stai usando tu? Il 2009 con quel turner grigio, così? Il turner sto usando, quello grigio. La manetta? No. Eccomi qua, pronti che parla? Ma scusa, a quanto ce l'hai la tua lì, a metà? Allora, 5 ce l'ho. Ci riesci a sentire la televisione pure? Si sente un po' la televisione la tua lì. Non è me. Sì, va bene, va. Ok, vai, qua. Ehi. No, io sto... Adesso ho commutato al Galaxy, che il 140 già ha funzionato per oggi. Andare. No, va bene Massimiliano, già spinge sto microfono, sì. Sì, va bene, non voglio. Allora, ce n'è in abbondanza, il segnale è buono. Benissimo, va bene, dopo quasi 20. Allora già, picchio già, è buono.